Carissimi amici ed amiche della Terra Sonora di Radio Alma 101.9, in questa puntata vi sto raccontando la storia di questa grande artista, di questa grande voce che è Billie Holiday. E parliamo ancora della sua vita professionale, parliamo di Billie che ogni tanto rincontrava anche suo padre, Clarence, che suonava la chitarra nei vari clubs. Era risentita dal fatto di essere stata abbandonata. Gli chiedeva i soldi per l'affitto, ricordandogli che lei e sua madre erano sole e povere. Lui qualche volta le dava i soldi, ma sempre le diceva che doveva smettere di chiamarlo papà davanti a tutti. In questo modo la gente, soprattutto le ragazze, avrebbero pensato che fosse vecchio. Le loro conversazioni si riducevano a questo. Più tardi qualcuno disse a Billie che Clarence si dichiarava offeso perché sua figlia non l'aveva mai chiamato come chitarrista per uno dei suoi dischi. Nel marzo 1937 Billie aveva 22 anni e stava cantando all'Uptown House quando ricevette la notizia che suo padre era morto in un ospedale del Texas per complicazioni polmonari. Billie soffrì per la perdita ed ebbe dei rimorsi per non aver tentato di migliorare il suo rapporto con lui. In seguito, ogni volta che incontrava un musicista che aveva lavorato con suo padre, non gli dava pace, voleva sapere su di lui tutto quanto era possibile. La sua vita professionale stava andando sempre meglio. E fu contattata e partì con l'orchestra, con la band di Count Basie. Mi misi a lavorare con Basie, racconta Billie, per fare un po' di soldi per vedere il mondo. Per quasi 2 anni non vidi altro che l'interno di un torpedone e non riuscì a mandare a casa neanche 10 cents. E poi ci fu anche un episodio strano. Una sera a Detroit, Billie fu costretta a subire una sorta di umiliazione. A causa del suo quarto di sangue irlandese, la sua pelle era un po' pallida, non molto nera. A quei tempi non si poteva neanche pensare che una ragazza bianca potesse stare da sola in mezzo a tutti quegli uomini neri. Billie dovette salire sul palco con la faccia scurita da cerone nero, senza che Count Basie potesse far nulla. Racconta Billie, l'orchestra di Basie era davvero una grande orchestra, e ancora sostengo che la cosa migliore della gente di Basie è che non adoperavano mai un foglio di musica. Una buona parte dei ragazzi non avrebbe potuto leggere la musica, neppure se ce l'avesse avuta davanti. E canta sempre benissimo, e tutto il mondo, tutta l'America per il momento, comincia a conoscerla. E lei dice del suo canto: non credo di cantare, io improvviso con la mia voce come se avessi uno strumento, un po' come fanno Louis Armstrong e Lester Young. Tutto mi viene fuori così, come lo sento. Questo è tutto quello che so. La tournée di Basie fu faticosa. Billie aveva in continuazione discussioni riguardanti i soldi e dopo 9 mesi decise di tornare a casa a New York. Si presentò da sua madre senza neanche un dollaro, senza voglia di cantare. Non cantavo più, neanche per conto mio. Mi rodevo il cuore e le unghie. E basta. Like a little old fashioned music box with just one tune to play. My heart keeps singing, I love you 24 hours a day. Like a little old fashioned music box that skips a note or two. My heart keeps missing a heartbeat, singing its song about you. And although the song we know is old, it's still the sweetest story ever told. A little old-fashioned music box with just one tune to play. My heart keeps saying I love you 24 hours a day. Primavera Billie ripartì per un'altra tournée, con la differenza che questa volta era l'unica donna nera in un'orchestra di soli bianchi. Il clarinettista Artie Shaw era leader della Big Band. Sulla scia del successo di Benny Goodman, Shaw mise un'orchestra da ballo su e scelse come cantante Lady Day. Ancora prima di iniziare la tournée, gli agenti di Shaw ebbero difficoltà nel vendere lo spettacolo. Una cantante nera con una band di musicisti bianchi era una novità assoluta. Debuttarono a Boston, dove tutto andò bene. I guai seri iniziarono quando il tour toccò gli Stati del Sud, dove Billie non si sentiva più chiamare Lady Day, ma semplicemente Nigger, negra. Ogni sera c'era il rischio che qualcuno del pubblico si alzasse per insultarla. Il più delle volte non era accettata nell'albergo o nei ristoranti dove il resto della band andava. Nonostante la solidarietà dei musicisti e dello stesso arte show, Billy fu spesso costretto a dormire e mangiare in posti riservati ai neri. Certe sere veniva addirittura sostituita da una cantante bianca, poiché i proprietari delle sale da ballo si opponevano tassativamente. Le testimonianze dicono che Billy, dopo le prime umiliazioni, cominciò a farci l'abitudine, addirittura a riderci sopra. Artie Shaw la difendeva in tutti i modi, era ebreo e in qualche modo abituato ai pregiudizi. Si dice che Billy e Shaw furono molto vicini per qualche mese. Viaggiavano insieme nella sua Rolls Royce bianca, che Lady Day giudicava "no damn good for lovers", maledettamente scomoda per due amanti. Billy restò con la band per 8 mesi, durante i quali fu continuamente umiliata, ma quando riusciva a salire sul palcoscenico otteneva un grande successo e la critica si accorse di lei. Iniziarono a scrivere della sua grande musicalità e personalità, ma soprattutto iniziarono a considerarla come una vera jazzista. Racconta: dopo essere riuscita a sopravvivere a mesi e mesi di difficoltà di ogni genere nel sud, alle prese con sceriffi, camerieri cerberi, direttori d'albergo e altri lunatici di tutte le categorie, la fregatura più solenne, il colpo più meschino, me lo presi proprio a New York, la mia città. L'orchestra era pronta per esibirsi in una sala da ballo di un albergo per varie sere. A quel tempo la radio mandava in onda gli spettacoli in tutto il paese, dando grande popolarità alle band e ai cantanti. La direzione del Lincoln Hotel impose a Billy di entrare da un'entrata secondaria e di aspettare i suoi numeri in una piccola stanza buia dietro il palcoscenico. Le chiesero gentilmente di non farsi mai vedere al bar. Sera dopo sera le sue esibizioni si fecero sempre più rade e in poco tempo fu sostituita. La stampa nera diede spazio a questa notizia chiamando Billy l'ultima sopravvissuta delle cantanti nere che lavorano con orchestre bianche. Artie Shaw replicò difendendosi. Lui e Billy rimasero comunque amici. Artie era un po' come me, non ha mai fatto del male a nessuno, tranne che a se stesso. Un momento molto importante per la carriera di Billie Holiday fu l'arrivo al Café Society, un club il cui slogan era "il posto sbagliato per la gente giusta". La vera novità di questo posto era che bianchi e neri potevano sedersi dove volevano, perfino allo stesso tavolo. Era il gennaio del 1939 e Lady Day aprì un nuovo capitolo della sua vita. Iniziò a cantare al Café Society con una nuova formazione, Frankie Newton e la sua band. Ogni sera facevano 3 spettacoli, alle 9, a mezzanotte e l'ultimo alle 2. Billy e la band venivano ingaggiati anche per suonare in feste private e ricevimenti ed erano spesso in giro. Lady Day faceva il suo ingresso nell'ambiente bene e conobbe tanta gente, fra cui molti bianchi. Ma fu qui che iniziò a cantare una canzone che segnò una svolta decisiva nella sua carriera. Louis Allen era un giovane poeta che una sera offrì a Billy di musicare una delle sue poesie. L'argomento scottava, trattandosi della descrizione di un linciaggio di neri nel sud. Fino a quel giorno Lady Day aveva cantato con straordinario talento soprattutto canzoni d'amore, ma fu colpita dalla crudezza e dalla forza di quella poesia. Decise di metterla in musica e lo fece insieme al pianista Sonny White, col quale divideva il flirt del momento. Il testo era veramente duro e impressionante, e la parte musicale riuscì poco meno odiosa. L'atmosfera della canzone era altamente drammatica. Quando Billy la cantò per la prima volta, il pubblico reagì con un silenzio di tomba, tanto era scioccante. Ma un minuto più tardi, qualcuno in un angolo iniziò ad applaudire, piano, e l'applauso si trasformò in una vera e propria ovazione. Strange Fruit è una canzone piena di immagini agghiaccianti. Lo strano frutto non è altro che il corpo di un nero linciato che penzola dai rami di un albero. Strana frutta di Lewis Allen. Gli alberi del sud hanno frutta strana, sangue sulle foglie e sulle radici. Un corpo nero ondeggia nella brezza del sud, frutta strana appesa al pioppo. Scena pastorale del cavalleresco sud, occhi di fuori e la bocca contorta. Profumo di magnolia, dolce e fresco, poi un odore improvviso di carne che brucia. Qui c'è la frutta che le cornacchie possono beccare, che la pioggia può raccogliere, che il vento può succhiare, che il sole può marcire, che gli alberi fanno cadere dai rami. Ecco, uno strano raccolto amaro. Thank you. check bottle swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Quella che abbiamo appena ascoltato, cari amici di Radio Alma e della Terra Sonora, era una registrazione di Strange Fruit realizzata a New York il 20 aprile del 1939 con la Frankie Newton Orchestra, cioè Frankie Newton, Tab Smith, Kenneth Hollon, Stanley Payne, Sonny White, Jimmy McLean, Johnny Williams, Eddie Dougherty e chiaramente la grande Lady Day, la grande Billie Holiday alla voce. Strange Fruit era una canzone politica. Quando la incise diventò subito il disco più venduto di Billy. La gente gliela chiedeva nei club e lei era stupita. Più tardi disse che le ricordava la morte di suo padre e che poche cose al mondo la struggevano in quel modo. Una sera cantò Strange Fruit in un club di Miami. Racconta: «Non ho mai sentito un applauso come quello lì. Lasciai il palcoscenico, salì in camerino, mi cambiai d'abito, tornai giù e la gente stava ancora battendo le mani». Billie Holiday passò 2 anni al Café Society, si fece molti amici e altrettanti ammiratori che la sera stipavano al club. L'ambiente era misto e familiare, ma non era certo Harlem. Racconta ancora: «Ho scoperto che la grande differenza tra la gente di Harlem e quella che abita in centro è che la prima gente è tanto più sincera. La sua gente rimanevano i neri, gli stessi che affollavano un piccolo ristorante sulla 90esima strada West, Mama Holiday's. La madre di Billy era riuscita ad aprirlo, realizzando così un desiderio che aveva da sempre. Lei cucinava soul food, tante persone andavano a trovarla e spesso non pagavano. Molti erano musicisti, ad altri bastava dire che erano amici di Billy per essere riveriti. Per Sadie, la mamma di Billy, era come se tutti fossero figli suoi. Billy si arrabbiava perché diceva che i soldi erano i suoi. Lady Day si trovava spesso senza soldi, nonostante il lavoro. Una sera era al verde e andò da sua madre a chiederle dei soldi, ma la mamma non volle darglieli. Lei fu così stanca del solito problema e piena di rabbia che le venne subito in mente il testo di una canzone. Billy andò al Greenwich Village a trovare il suo amico Arthur Herzog e nacque God Bless the Child. Questa canzone trovò subito posto nel repertorio di Lady Day e ancora oggi i grandi jazzisti le rendono omaggio ogni volta che la suonano. Shall get them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. The strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child. that's got his own, that's got his own. Of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Benedica quel ragazzino. Arthur Herzog, testo Billy Holiday. Chi ha molto avrà sempre di più, chi ha poco avrà sempre di meno. Così dice la Bibbia e fa ancora notizia. Tuo padre sarà anche ricco, tua madre sarà anche ricca, ma Dio benedica quel ragazzino che fa da sé. Il forte si rafforza, mentre il debole svanisce. Le tasche vuote non hanno mai fatto colpo. Quando hai soldi, hai tanti amici che si accalcano alla tua porta, ma quando i tuoi soldi sono spariti e hai smesso di spendere, nessuno si fa più vedere. I parenti ricchi possono darti un tozzo di pane o giù di lì. Serviti pure, ti dicono, ma non mangiare troppo. Tuo padre sarà anche ricco, tua madre sarà anche ricca. Ma Dio benedica quel ragazzino che fa da sé. Billy non smetteva intanto di incidere i dischi. Scrisse un'altra canzone, destinata a diventare una delle sue perle. Firmò testo e musica, costruendo il tutto su un blues a 12 battute che chiamò Fine and Mellow. Il suo uomo la maltratta e la respinge, ma lei gli perdona tutto nell'istante in cui lui inizia a fare l'amore con lei. Blues to me is like being very sad, very sick, going to church, being very happy. Two kinds of blues. There's happy blues and there's sad blues. I don't think I ever sing the same way twice. I don't think I ever sing the same tempo. One night's a little bit slower, next night is a little bit brighter. It's going how I feel. I don't know, the blues is sort of a mixed up thing. You just have to feel it. Anything I do sing, it's part of my life. My man don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Il mio uomo non mi ama, mi tratta così male. È l'uomo più cattivo che abbia mai visto. Indossa dei pantaloni drappeggiati a strisce molto gialle. Ma quando comincia ad amarmi è così bello e languido. L'amore ti fa bere e giocare d'azzardo, ti fa star fuori tutta la notte. L'amore ti fa fare delle cose che tu sai sono sbagliate. Ma se mi tratti bene, amore, starò a casa giorno e notte. Invece sei così cattivo con me che so che mi farei andare via. L'amore è proprio come un rubinetto, si apre e si chiude. Certe volte lo credi aperto, invece è chiuso e non c'è più un goccio. Fine and Mellow, Bello e Languido, Billie Holiday. Dopo due anni al Café Society, il quartier generale di Billy si spostò nel centro di Manhattan, nella celebre 52esima strada. Da un capo all'altro della 52esima strada avevano attaccato a fare swing a tutto spiano, ma non trovavi un viso nero in tutta la sua lunghezza, eccettuato Teddy Wilson e me. La nuova musica, si permettevano di chiamarla nuova, tutti quei milioni di babbei, perché nessuno di loro evidentemente si era mai spinto fino alla 131esima strada. Se ci fossero andati, avrebbero potuto conoscerla 20 anni prima. Ad ascoltare Billy c'erano sempre i più grandi jazzisti, magari seduti in fondo alla sala. Le altre cantanti la imitavano, era apprezzata ed amata. Per il grande pubblico Lady Day era quasi una sconosciuta. Chi la conobbe bene disse che questa era la cosa che più la faceva soffrire e più la scoraggiava. Dissero anche che aveva intorno molti uomini, ma più di tanto non li lasciava avvicinare. Sentiamo perché dal suo racconto. Nei rapporti con gli uomini c'era un rischio che potevo correre. Non ammettevo che un uomo ignorasse ciò che mi era capitato da bambina, ma nello stesso tempo diventavo guardinga con lui, sospettosa, nella paura che un giorno, in qualunque litigio, lui saltasse su a rinfacciarmele quelle cose. Non volevo che un uomo potesse tenere il mio passato come una pedina da muovere quando capitava l'occasione, o magari soltanto per lasciarmi capire che io ero sempre qualcosa meno di lui. Nel settembre 1941 Billy si sposò con Jimmy Monroe. Era dopo Buck Clayton il più bell'uomo che avessi mai visto, dirà poi Billy. Era già stato sposato con un'attrice inglese con la quale aveva vissuto in Europa. Nonostante le previsioni di infelicità espresse dalla madre di Billy e dal suo manager Joe Glazer, lei lo sposò senza sentire ragione. Andarono a vivere nel Bronx con la mamma e presto lui iniziò a picchiarla e a tradirla. Peggio ancora, aveva una passione per le bambole bianche. Dice Billy, ho abitato insieme a Jim Monroe un anno prima di scoprire un altro fatto che stava capitando. Fumava roba strana. La roba strana era oppio e Billy iniziò ad averci una certa familiarità. Lady Day scrisse nella sua autobiografia che Don't Explain, una delle sue canzoni più note, è chiaramente riferita alla sua storia con Monroe, anche se la incise anni dopo. Da lui non voleva spiegazioni, ma un giorno andò dal suo amico Arthur Herzog, che era sempre pronto per le sue ispirazioni immediate. Lei scrisse il testo e lui compose la canzone, oggi considerata una delle più belle del repertorio di Lady Day. Zitto, non spiegarmi. So che ti piace fare scene. Sono contenta che sei tornato. Non spiegarmi. Calma, non spiegarmi. Ti sei immischiato con qualche bambola? Lascia perdere quel rossetto. Non spiegarmi. Sai che ti amo. E quello che l'amore può sopportare, tutti i miei pensieri, sono per te e sono assolutamente tua. I pettegolezzi mi feriscono. So che mi tradisci, ma giusto o sbagliato, non importa. Quando sei con me, amore. Zitto ora, non spiegarmi. Sei la mia gioia e il mio dolore. La mia vita è tua, amore. Non spiegarmi. Billie Holiday, Arthur Herzog, Don't Explain. Cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Alma e della Terra Sonora, questa è la prima parte della storia della vita di Billie Holiday, una storia molto poetica, perché scriveva poesie, perché cantava con la sua voce poetica e perché ci ha lasciato veramente tanti sentimenti da ascoltare attraverso la sua voce, una delle poche voci della storia dell'umanità che riesce a cantare i sentimenti, una di quelle voci che ti tocca il cuore e l'anima pur non conoscendo nulla delle parole che sta cantando. Una vita che ha attraversato anche un momento importante della storia americana, quella della lotta tra i neri e i bianchi, o più che altro di quelli che sono stati gli sciami razzisti contro i neri appunto d'America. Lei l'ha attraversata con grande dignità e con grande forza, venendo fuori alla grande con il suo talento, con il suo canto. E questo è vivere poeticamente, abbandonarsi al proprio talento e lasciare che il talento ci guidi ogni momento e ogni giorno della nostra vita, facendo in modo che chi è intorno a noi possa valutare il nostro talento attentamente attraverso i gesti quotidiani. Billie Holiday con la sua voce veramente ci ha lasciato delle emozioni incredibili. La sua storia non finisce qui. La prossima settimana vi racconterò la seconda parte di questa storia eccezionale. Entreremo, è vero, nella parabola discendente di questa grande artista, ma la sofferenza, la vita che va avanti l'ha portata a scrivere, a cantare, a interpretare ancora più canzoni di un livello emozionale veramente incredibile. Bene, io vi saluto qui e lo faccio con un artista italiano, Rossana Casale, che ha dedicato proprio a Billie Holiday un disco, Billie Holiday in Me. Ascoltiamo una parte di questa canzone che si chiama Speak Low e noi ci sentiamo la settimana prossima qui su Radio Alma, qui con la tela sonora, per la seconda parte di una storia poetica, di una vita importante della cantante numero uno, la più grande, a mio modesto parere, Billie Holiday. Alla prossima settimana, da parte di Massimo De Martino, è davvero tutto. Un abbraccio poetico e a presto.